1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7 e 19 minuti in punto. Eccoci qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Ci occuperemo oggi del maltempo, soprattutto le polemiche a Genova. Avremo ospite il presidente della Liguria Burlando alle 8:15. Avremo ospite anche il procuratore di Genova Michele Di Lecce, perché la procura indaga per omicidio colposo. Avremo ospite l'assessore all'ambiente di Genova. Insomma, parleremo di quello che è il disastro ennesimo e le polemiche conseguenti per l'alluvione. Situazione ancora molto complicata anche in altre zone d'Italia, ma lo vedremo appunto tra pochissimo anche leggendo i giornali. Questo martedì 14 ottobre i titoli principali, per la verità, sono sugli annunci che ieri ha fatto Matteo Renzi, il Premier. IRAP, taglio da 6,5 miliardi, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina. Zero contributi nei primi tre anni per chi assume a tempo indeterminato. Per il Corriere della Sera invece meno tasse e spese, serve uno shock. È un'intervista anche a Del Rio, il sottosegretario, che dice manovra da 30 miliardi. Repubblica, Renzi, una manovra da 30 miliardi, sgravi alle imprese che assumono. Per la Stampa, Renzi promette niente contributi per i neoassunti. Il Messaggero, taglio IRAP e sgravi a chi assume. Mentre per il Fatto Quotidiano, Genova piove sul fango, paura, fischi e Renzi scappa. Il Giornale invece, finalmente meno tasse, Renzi fa una cosa di destra. Per Libero, governo sott'acqua, la resa dei conti, Renzi si rifugia a Confindustria per sfuggire i fischi degli alluvionati, ma non sa che fare sulla legge di bilancio. Mentre Il Manifesto la vede così, c'è la foto di Renzi a Confindustria, meno tasse per loro, mirabolante show di Renzi davanti alla platea di Confindustria, promette una manovra da 30 miliardi, molti dei quali destinati alle imprese. Questi i titoli anche per Avvenire, una super manovra con tagli alle tasse, stabilità da 30 miliardi. Ma il sipario sulla legge di stabilità si aprirà domani e quindi vedremo tutti i dettagli. Intanto la situazione sul maltempo continua a creare polemiche, sono molti articoli oggi ancora sui giornali, a cominciare da Jacopo Giliberto che racconta sul Sole 24 Ore a pagina 13: è pronto il piano sblocca opere. Eccola qui la task force di Palazzo Chigi, che è capitanata da Erasmo De Angelis, che è ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e ora coordina la task force contro il dissesto idrogeologico, e ha detto: abbiamo sbloccato l'Arno 15 giorni fa, oggi sblocchiamo Genova, il 20 ottobre a Milano sbloccheremo i cantieri sul Seveso che ha straripato 7 volte negli ultimi 2 mesi. Il piano sblocca opere, un emendamento del governo stanzia 50 milioni per l'emergenza di Genova. Il problema è che le opere c'erano già, i soldi per le opere c'erano già, ma è stato tutto bloccato dalla burocrazia. Ma adesso l'idea, come racconta lo stesso Erasmo D'Angelis, è quella di fare delle leggi che in qualche modo superino i contenziosi. Erasmo D'Angelis al Fatto Quotidiano, intervistato da Alessio Schiesari, dice a pagina 3: ci sarà una legge contro i ricorsi, abbiamo definito i cantieri da far partire, le priorità sono il Bisagno e il suo affluente Fereggiano che attraversano il centro storico della città e l'epopea giudiziaria iniziata nel 2012 a causa dei ricorsi. Oggi abbiamo messo fine a questa vicenda, cioè è stato il TAR del Lazio che ha respinto l'ultimo ricorso. Ora è arrivata una nuova diffida da parte delle aziende che hanno perso la gara d'appalto al Consiglio di Stato. Poi si vedrà. In che senso poi si vedrà? Che il contenzioso giuridico continua, ma i cantieri partiranno ugualmente. Ecco, questa è la novità. Nonostante il contenzioso giuridico, facciamo partire i cantieri. Viene da dire, va bene, ma se poi dopo... cosa facciamo? Aboliamo il TAR, aboliamo il Consiglio di Stato? Forse sarebbe più semplice per cercare di eliminare il contenzioso, oppure quando ci sarà un contenzioso che approderà il Consiglio di Stato, che succederà? Ma staremo a vedere. Intanto non diminuisce lo scandalo vero e proprio per i dirigenti del comune di Genova che sono stati pagati e hanno ottenuto un premio produttività nonostante la situazione davvero complicata, per usare un eufemismo, al comune. Oggi il Secolo XIX torna su questa vicenda, come altri giornali, e racconta a pagina 2 la vicenda di Stefano Pinasco, per esempio, uno dei premiati. Stefano Pinasco, manager premiato, anche per colpa sua Sestri fu devastata. Questo è il titolo del Secolo XIX ed è una sentenza del tribunale. Marco Grasso e Matteo Indice raccontano: c'è qualcosa di conflittuale nel modo in cui a volte si esprimono le autorità. Per dire, secondo il Comune di Genova, il dirigente Stefano Pinasco, ai vertici della divisione opere idrauliche, ha raggiunto tutti i risultati prefissati in materia di scolmatore del torrente Bisagno, perciò ha ottenuto un premio da 9.405 euro. Ma leggiamo le motivazioni con cui il Tribunale il 29 novembre scorso, 7 mesi prima che a Pinasco fosse retribuito questo premio, ne disponeva il rinvio a giudizio con l'accusa di inondazione colposa. Eccole qui le motivazioni. Nella sua qualità di dirigente del settore idrogeologico del Comune di Genova, fino al 2009 e successivamente in qualità di direttore manutenzione strade, parchi verdi, litorali e piani del bacino del Comune di Genova, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di buona amministrazione, non avendo prospettato o proposto azioni concrete in tema di protezione civile per eliminare o almeno ridurre il grave rischio per la pubblica incolumità del quartiere di Sestri Ponente, tollerava la prostrazione nel tempo di palesi e riconosciuti rischi idraulici, ometteva di attivare periodici adeguati interventi di manutenzione ordinaria, contribuiva a cagionare il disastroso evento alluvionale verificatosi a Genova il 4 ottobre 2010. Insomma, come scrive il Secolo, per dirla un po' più cruda, la si potrebbe mettere giù così. Secondo il Comune, Pinasco da 2 anni lavora in modo così impeccabile sui temi idrogeologici da meritare un bonus. Agli occhi dei giudici, giusto un paio d'anni prima era stato tra coloro che, lavorando molto male proprio temi idrogeologici, aveva contribuito a causare il disastro di Sestri. Ale. Si difende l'assessore al personale del Comune di Genova, Isabella Lanzone, intervistata proprio dal Secolo XIX, a dire: a giugno, quando fu approvato il premio, nessuno fiatò. Che, insomma, mi sembra una giustificazione. Magari non lo sapevano le persone. Comunque, tra chi approva i premi ai dirigenti dell'amministrazione c'è il Consiglio Comunale. Mi chiedo come mai allora questo problema venga posto proprio adesso, in piena emergenza alluvione, alla polemica nei confronti dell'ex candidato sindaco Musso di centrodestra, che sta in Consiglio Comunale, e dice l'assessore: quando fu proposto il premio in Consiglio Comunale approvato, Musso non disse nulla. Adesso, invece, tra l'altro, anche a Repubblica l'assessore al personale Lanzone dice: i premi ai dirigenti se li sono meritati. Questo è il titolo. È chiaro che assistere a queste dichiarazioni, il Corriere non contribuisce a svelenire il clima, ecco, mettiamola così. Il Corriere della Sera, pagina 11, con Erika Della Casa, racconta che i dirigenti del disastro sono in corsa per altri bonus, altri, ulteriori. Ne parleremo alle 8.15, dalle 8.15, mentre le province, che sono vive vegete, lo sapete, le provinciali sono state fatte, hanno votato non gli elettori, i cittadini, ma i sindaci e gli assessori hanno votato per i presidenti delle province. Come è finita a Catanzaro? È finita al pronto soccorso. Le provinciali di Catanzaro finiscono al pronto soccorso, come raccontano il Fatto Quotidiano e La Stampa. Lucio Musolino sul Fatto Quotidiano racconta che a Catanzaro a tener banco non sono stati trascorsi i giudiziari dei candidati, ma la resa dei conti, tutta interna al centrodestra, con il sindaco Sergio Abramo e il suo ex assessore Massimo Lo Monaco, indagato nell'inchiesta firme false, che sono finiti a pugni e schiaffi. Qualcuno ha visto lo Monaco a terra con la camicia strappata, gli occhiali rotti. Prognosi di 15 giorni per lui e 7 giorni per il sindaco, o viceversa. Comunque fanno 22 giorni di prognosi messe insieme. La stampa, le province contano. A Catanzaro finisce a botte. Vabbè, almeno hanno animato un po' le elezioni. Ma il premio, la carta... No, il premio non la carta costa, quello arriva dopo. Il premio mani sul volante e anche mani sulle tazzine del caffè bollente e sulle brioche piene di crema che poi le spremete. Per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata va al Corriere della Sera con Dino Martirano, che ci racconta, facendo i conti grazie al Ministero della Giustizia, quanto ci sono costati, mettiamoli così, gli errori dei magistrati negli ultimi 20 anni. Quanto abbiamo pagato in RID, riparazione per ingiusta detenzione. Quanto ha pagato lo Stato, cioè noi, per errori di persone messe in carcere e poi scarcerate con tante scuse e un po' di soldi. Volete sapere quanto abbiamo speso in 20 anni? 567.744.479 euro e 12 centesimi. Sydney, al centro di Sydney è crollato un grosso palazzo. Ci sono 757 morti. Tu ci stavi a Sydney nel palazzo crollato? No. E allora perché sei gazzetto? Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Eccolo qua. E allora c'è anche un SMS di chi mi scrive: il collega Pinasco è da 72 ore sveglio attivo per prestare la sua ottima attività a Genova. Più rispetto. Ma rispetto, voglio dire, rispetto, starà sicuramente lavorando tantissimo, a parte che i giornali raccontano da 3 giorni come abbia fatto un po' arrabbiare, caro ascoltatore, questi premi produttivi. Quindi i premi produttivi hanno fatto un po' arrabbiare, e scrive il Secolo XIX, hanno fatto notare che se c'è un premio del comune c'è un tribunale che dice una cosa diversa, allora si mettessero d'accordo, va bene? E poi diamo tutti i premi che volete, se sono giustificati e meritati. Comunque veniamo alle questioni di tasse, legge di stabilità e gli annunci che ieri ha fatto il premier Matteo Renzi: il taglio IRAP da 6 miliardi e mezzo via tasse per 18 miliardi. Questo è sintetizzato dal Sole 24 Ore a pagina 3 nell'articolo di Barbara Fiammeri. La legge di stabilità sale a 30 miliardi. Fino a poco tempo fa un simile annuncio sarebbe stato foriero di cattivi presagi, ma Renzi invece ne fa uno spot a sostegno della politica economica del governo per rilanciare crescita e occupazione, dicendo: per 3 anni contributi di tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno a carico dello Stato. A partire dal 2015 verrà cancellata dall'IRAP la componente lavoro, misure che, assieme alla conferma del bonus degli 80 euro, all'allentamento del patto di stabilità interna e ferma restando la determinazione a procedere a un accordo con le banche per l'anticipo facoltativo del TFR, dovrebbe contribuire a ribaltare la spirale recessiva confermata ieri anche da Istat e Banca Italia. Questo ieri Renzi all'assemblea di Confindustria Bergamo. C'è stata la contestazione degli operai della Fiomma, il grido di buffone fuori ad attenderlo, e Renzi che fa questo annuncio e racconta, tra l'altro, Francesco Bei in un lungo interessante retroscena su Repubblica. Dice: è una manovra di sinistra quella che ci approntiamo a fare domani. Se l'avesse fatta un altro avrei preso gli applausi anche da tutta la CGIL. Quel 1.200.000.000 di sgravi previsti per chi assume nel 2015 a tempo indeterminato sono proprio un messaggio a quanti, dalla CGIL alla minoranza del PD, lo accusano di preparare un mondo ancora più precario. Dice Renzi ai suoi: ho detto che avrei puntato sul contratto a tempo indeterminato e l'ho fatto. e davanti ai padroni, tra virgolette, sapete che è rinato il dibattito sugli industriali padroni all'interno del PD, dove avrebbe potuto vantarsi per l'abolizione dell'articolo 18, ha preferito invece battere un altro tasto. Sarebbe stato facile strappare l'applauso di fronte a quella platea, invece ho parlato di assunzioni e taglio delle tasse. Certo, il tema è sempre questo: dove si trovano i soldi? Dove si trovano le coperture? E qui il retroscena di Francesco Bei racconta: il capitolo è ancora in parte segreto. Ci stanno lavorando i tecnici di Padoa, i consiglieri economici di Palazzo Chigi. C'è un dato su tutti che al Premier preme sottolineare, quello dei tagli alla spesa improduttiva. Insomma, la famosa spending review. E c'è questa frase che viene attribuita a Renzi. Sentite bene, eh? Ho previsto tagli per 13 miliardi di euro alla faccia di Cottarelli. Ma come alla faccia di Cottarelli? Ma allora è vero che, secondo quanto scrive Repubblica, avrebbe detto Renzi che i rapporti tra i due, tra Renzi e l'ultimo commissario della spending review, che da due giorni è tornato al Fondo Monetario, non fossero proprio dei rapporti idilliaci, no? 3 miliardi dal recupero dell'evasione, 1,5 miliardi dalle slot machine, e ancora diranno che faremo solo annunci? Facciamo questa manovra nonostante la crisi sia anche più forte del previsto, anzi forse proprio per questo. E l'Unione Europea, c'è il rischio bocciatura che incombe, ma che può fare? Imporre multe? Aprire una procedura di infrazione? Il Premier dice: non ci possono fare nulla, al massimo chiederci di modificarla un po', semmai ad aprile valuteranno se aprire la procedura di infrazione, ma non prima di aprile, un tempo lungo. Dunque Renzi così si appresta alla legge di stabilità, mentre il sottosegretario Delrio, intervistato da Antonella Baccaro sul Corriere della Sera, pagina 5, dice: eccola qui la manovra, siamo quasi pronti, manovra da 30 miliardi. Parte dei 16 miliardi di cui si parla verranno dalla lotta all'evasione fiscale. 16 miliardi di spending review, una parte dalla lotta all'evasione fiscale. E poi la riduzione dei premi sui giochi, nel complesso contiamo di ricavare 3 miliardi. E ancora la stretta all'acquisto di beni e servizi, è un lavoro già impostato col decreto legge 66, anche qui possiamo parlare di 3 miliardi di tagli. Il resto verrà da tagli di ministeri, regioni e comuni. Esatto, dice Delrio, ma l'apporto dei comuni sarà ridotto perché hanno già l'obbligo di pulire i loro bilanci. Il Premier ha parlato di un taglio di tasse mai realizzato prima da 18 miliardi. Come ci si arriva? Risponde Delrio: mantenendo tutte le promesse fatte, confermiamo, rendendoli strutturali, il bonus da 10 miliardi in busta paga, il taglio dell'IRAP, che anzi andiamo a rafforzare con una spesa complessiva sull'anno di 6,5 miliardi, concentrandolo sul costo del lavoro. A questo aggiungiamo un bonus per gli imprenditori che assumono a tempo indeterminato. Confermati anche il bonus energia e quello per le ristrutturazioni, mentre il TFR non sarà nella legge di stabilità. Abbiamo tempo di approfondire il tema. Riguardo alla presunta trattativa con l'Europa sulla manovra, la risposta di Delrio è no, non c'è alcun accordo e alcuna trattativa con l'Europa, anche se i giornali raccontano così per quel che riguarda la legge di stabilità. Ma domani la vedremo, mentre oggi è anche un giorno importante per l'Italia, come racconta anche il direttore del Sole 24 Ore e il nostro direttore Roberto Napoletano in prima pagina del Sole, e cioè la partita italiana nel gioco globale. Questo è il suo editoriale, perché si racconta e si commenta anche l'articolo che il premier cinese Li ha fatto ieri in esclusiva per il Sole 24 Ore. Perché oggi il premier cinese sarà a Roma. Racconta Rita Fatiguso i dettagli dei 20 accordi commerciali che si prevedono tra Italia e Cina, un'intesa da 3,8 miliardi tra la Cassa Depositi e Prestiti e China Development Bank. Insomma, tutti i dettagli di questo importante viaggio istituzionale del premier cinese li trovate sul Sole 24 Ore per rilanciare questa partnership strategica tra Italia e Cina. Ovviamente il rischio in questi casi è sempre, da chi dice il timore, che comprino asset importanti del nostro paese. Questa è la domanda che accompagna questo viaggio, ma sicuramente un'opportunità, vero Mauro Meazza? Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Beh, insomma, d'altra parte come dire, i soldi bisognerebbe chiederli a chi ce li ha, no? Questo sembrerebbe una certo. regola, magari non proprio da master in business administration, però forse da buon senso. Tant'è vero che oggi sul Sole 24 Ore, ma in altra pagina rispetto a quella che tu citavi ora, si riparla di privatizzazioni a proposito di cercare dei soldi anche in vista della legge di stabilità, e si parla del 5% di ENI che sarebbe pronto, insomma, a tornare, ad andare sul mercato per ricavare 2 miliardi e mezzo circa. Non vorrei però che tutte queste cifre, Alessandro, si distraessero dalla data di oggi. La vera cifra. La vera cifra, cioè il vero appuntamento è la TASI. Sai qual è? La TASI. È la TASI. La TASI. È la TASI. Allora, la TASI, il nostro incubo di ottobre. Ancora oggi abbiamo delle risposte, abbiamo delle indicazioni operative sul Sole 24 Ore, poi c'è il sito www.sole24ore.com con il dossier, con il calcolatore per la TASI. Insomma, paghiamola, che dobbiamo fare, Alessandro? Non c'è alternativa. Anche pensavi di non pagarla? Volevi evadere? Ma insomma, un pochino mi aveva accarezzato la tentazione, sai com'è? Anche si può sempre avere qualche tentazione che ti allontana dalla retta via. Però, scusami, poi a proposito di TASI, di immobili, eccetera, c'è la pagina del condominio. Sì. E parliamo delle deleghe in assemblea. Tu che non ci vuoi mai andare in assemblea di condominio, come me l'hai fai detto? A saperlo? Me l'hai detto. Vai a leggerti un po' i nuovi limiti che ci sono per le deleghe in assemblea. Anche ieri c'era l'assemblea, infatti non c'ero. E non ci sei andato, lo so, perché non ci vuoi mai andare. Senti, poi un pensiero al contratto dei bancari, che oramai è avanti da mesi, penso da anni addirittura. Noi ne riferiamo quasi quotidianamente sul Sole 24 Ore, non ne parliamo spesso la mattina perché si fanno piccoli passi avanti e molti passi dietro in questa trattativa, però anche oggi appunto ci sono delle informazioni su come procede, non benissimo devo dire, la trattativa dei bancari. E tutto ciò premesso... Certo, è quello lì. E diciamolo, traffico. Promo 24. Expo 2015 porterà in Italia oltre 23 miliardi di euro di produzione aggiuntiva da qui al 2020. L'impatto maggiore riguarderà il settore manifatturiero e i servizi alle imprese, seguiti da turismo e commercio. Per cogliere questa opportunità è fondamentale aggiornare e innovare la propria azienda. A SMAU, dal 22 al 24 ottobre a Fiera Milano City, imprenditori e manager trovano le più innovative soluzioni per il business, i prodotti e i servizi di oltre 200 startup e oltre 6 milioni di euro in voucher di Regione Lombardia, dedicati alle piccole e medie imprese per progetti di innovazione e acquisto di tecnologie digitali. Per partecipare, iscriversi al sito smau.it e scegliere i contenuti di proprio interesse. Alessandro Mila, le mani sul volante dell'informazione. Sempre, sempre, cari ascoltatori, mani ben strette sul volante o sul manubrio se siete in moto, sennò poi dopo ci mandate il conto delle vostre rabbie che sfogate sui cruscotti, sui manubri, sui volanti, sulle tazzine. E invece no, io non pago, sia chiaro. Allora, ci sono tante pagine che raccontano, in prima sul Sole 24 Ore, la prima di Economia del Corriere della Sera, pagina 13 di Repubblica, cosa sta succedendo all'interno di una delle aziende più importanti in Italia e nel mondo, Luxottica, dove c'è una contestazione dopo che il primo settembre l'amministratore delegato Andrea Guerra lascia dopo 10 anni la società. Il patron dell'azienda Del Vecchio punta sul raddoppio del ruolo di amministratore delegato e il neo amministratore delegato Cavatorta, dopo aver ricevuto l'incarico, dà le dimissioni contestando il ruolo di un consulente esterno, Francesco Milleri. Questa è la vicenda riassunta, diciamo, in poche righe anche dal Corriere della Sera. Ma certo, Luxottica, che non è stata premiata dal questa confusione societaria dal mercato. E soprattutto, insomma, cambiare due amministratori delegati in 40 giorni ha chiaramente, come ha scritto Repubblica con Luca Pagni a pagina 13, ha generato un po' di maretta anche tra gli investitori e quindi di incertezza sui mercati. E poi c'è questo articolo che racconta Luigi Ferrarella questa vicenda che racconta Luigi Ferrarella a pagina 31 del Corriere della Sera, che certo forse non contribuirà o chissà a dare ulteriore solidità. Un assegno da 146 milioni, Leonardo fa pace con il fisco. È la vicenda che Leonardo Del Vecchio ha deciso di chiudere, racconta il Corriere della Sera, con l'Agenzia delle Entrate, una transazione da 146 milioni già versati, che gli varrà anche la certezza dell'archiviazione in sede penale per una vicenda che riguardava il passato, che era questa sostanzialmente, racconta il Corriere. I dividendi maturati in Lussemburgo sono ancora solo potenziali o hanno già carne e ossa tassabili in Italia? Il loro incasso potenziale nel 2006, benché non ancora fisicamente avvenuto, può essere già qualificato incasso giuridico? Su questioni tributarie e penali di questo genere, Leonardo Del Vecchio forse avrebbe già potuto protrarre a lungo un braccio di ferro con l'Agenzia delle Entrate, con la Procura di Milano che lo indagava per ipotesi di reato di dichiarazione infedele, ma ha deciso invece di transare con una maxi transazione appunto da 146 milioni di euro. La pace con il fisco, come racconta il Corriere della Sera. Veniamo invece a un allarme che il Giornale ha messo in prima pagina e che io vi riporto così, perché la fonte è una fonte autorevole, è il capo degli 007 del Marocco. Il titolo è questo: sventato un attacco terrorista alla metropolitana di Milano. È chiaro che messo così è un titolo che fa molto scalpore. Luigi Guelpa che ne parla. La premessa è chiara: l'Italia è nel mirino dell'ISIS, lo confermano i servizi segreti del Marocco, che parlano di attentati sventati quasi per il rotto della cuffia, non solo a Milano ma anche a Bologna e Padova. È un'intervista che ha fatto coi giornalisti il capo degli 007 del Marocco, si chiama Yassine Mansouri, è il capo dei servizi segreti del re Mohammed VI, e che ha detto in questa intervista: abbiamo sventato una serie di attentati alla metropolitana di Milano e alle basiliche di Padova e Bologna, parlando ovviamente dell'estero, quindi dell'Italia. La cellula era marocchina, interagiva con alcuni fiancheggiatori in Italia, siamo riusciti a fare un buon lavoro, il gruppo è stato messo nelle condizioni di non nuocere. È chiaro che messa così in prima pagina del Giornale, poi Luigi Guelpa svela i dettagli a pagina 16, è abbastanza inquietante. Mentre Berlusconi, che ieri ha incassato il ritorno in Forza Italia di un senatore, il senatore D'Alì, e forse altri potrebbero lasciare il nuovo centrodestra di Alfano e tornare a Forza Italia, Berlusconi però è sulle prime pagine dei giornali perché ha combinato un'altra cosa, e cioè dal lunedì in cui faceva le cene con Umberto Bossi, vi ricordate le cene tradizionali del lunedì, ieri invece a cena c'era Vladimir Luxuria. Sapete che l'avvicinamento tra Vladimir Luxuria e Silvio Berlusconi, complice Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi che è andata anche ospite al Gay Village di Vladimir Luxuria, è un avvicinamento che continuo, e ieri c'è stata questa cena. La cena di Luxuria ad Arcore, io e la Pascale convinceremo Silvio, ovviamente sul tema dei diritti civili per gli omosessuali. Ecco una pagina intera, pagina 16 di Repubblica: Luxuria ad Arcore vede Berlusconi sui diritti dei gay e giravolta politica, racconta in un'intervista di Tommaso Ciriaco. Prima di entrare a cena da Berlusconi, Vladimir Luxuria: una visita clamorosa, la vita è bella anche per questo, piena di sorprese. E poi racconta di Francesca Pascale, ragazza molto intelligente, determinata, gli avrà fatto una capa tanta a Berlusconi. E poi inizia a ridere Vladimir Luxuria, che ride, dica: troppe donne non hanno fatto bene al cavaliere, magari dedicarsi a noi gli farà bene almeno un po'. Così Vladimir Luxuria, poco prima di entrare nella cena da Silvio Berlusconi ad Arcore. Che si saranno detti? Lo so che lo volete sapere. Oggi ci saranno i dettagli. I dettagli. Vi segnalo uno straordinario reportage di Domenico Quirico dalla Sierra Leone. Una delle zone più colpite dall'Ebola si trova a Kenema, al confine tra la Sierra Leone e la Liberia, Domenico Quirico, per La Stampa, Ebola nella città dove muoiono i medici eroi. Un reportage di prima pagina che poi continua a pagina 6 e 7. Scrive Domenico Quirico: nella città cimitero dove muoiono i medici eroi, nell'ospedale di Kenema, il morbo sembra invincibile. Pensate, sono stati contagiati tutti, dal primario agli infermieri. Certo, Ebola fa paura anche in Occidente, ma ci sono zone del mondo, l'Africa e alcuni paesi nello specifico, dove davvero fa molta, molta più paura. Sappiate, cari padroni di gatti, di mici, di mice, che racconta il giornale con Marta Bravi, arriva il primo gatto parco, il primo giardino a misura di felino con gazebo e laboratori. Si chiamerà Gatto Parco e sarà inaugurato ad aprile in tempo per l'Expo. Non chiedetemi dov'è, è a due passi dai Navigli, ma comunque, eccolo qua, accanto ai giardini Baden Powell diventerà, ci sarà il primo gatto parco d'Italia. Gattari di Milano, siete avvisati. Era veramente in lizza questo per il premio La Carta Costa, eh? Ma non l'ha vinto, perché c'è di meglio o di peggio. Vince il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, a mio insindacabile giudizio, Roselina Salemi, che dedica un'intera pagina sulla Stampa per certificare che, secondo Esquire, la regina, la più bella del mondo, mamma mia come mi fanno arrabbiare queste classifiche, è Penelope Cruz. Se gli uomini preferiscono Penelope Cruz, è la donna più sexy del mondo. Ma chi l'ha... E poi c'è il dibattito, le brune che scalzano le bionde perché l'anno scorso era Scarlett Johansson, basta! Ma chi se ne frega!